Imperia anno 2006. Euro Man, Frank Borghello, bro. I miei uomini ti sono addosso. Manico. Paura. Ti sembriamo spaventati. Ho 3 chili e lascio. Euro Man, figli di Anderson. Mi pare già la cinesa colombina. Frank B, Frank Borghello. Hai scoperto la missilista. Poi una mattina si sintonizzò su una stazione radio di New York. La missilista è su di noi. L'artiglieria aggiunge dignità a quella che altrimenti sarebbe una volgare rissa. Piazza San Giovanni. Vorrei prima bere qualcosa. C'è birra. Che ne dici di mangiare qualcosa? Ma stanno calando. Azioni extra rotonde. Per le feste. E altro ancora. Carisca. Perché è giorni di brume. Questi sono tempi di carestia. Dai, il puzzo di questa roba è terribile. Fumo adesso spesso nei polmoni. La mano. La piazza di una città, Cozze Mineia, Rione San Giovanni, più o meno usciti indenni dagli ultimi 10 anni. Cozze Mineia, Rione San Giovanni, ne siamo usciti vivi in paradiso tanti santi. Cozze Mineia, Rione San Giovanni, più o meno usciti indenni dagli ultimi 10 anni. Cozze Mineia, Rione San Giovanni, ne siamo usciti vivi in paradiso tanti santi. La frittata è fatta ed è frittata grossa, grossa, grossa, grossa, grossa, grossa, grossa.